arido nei sentimenti, freddo, che non gli ha dispensato né l'affetto né il calore di un padre. Un uomo che non sapeva ridere, che non amava la musica, l'unica musica che piaceva, diceva: mi piacciono solo i tamburi e la fanfara, pensate un po'. E oltretutto disprezzava, non amava il suo figlio, aveva capito che era completamente diverso da lui e lo aveva messo nelle mani di un ammiraglio, come tuttora, un ammiraglio, un certo Bonaldi, un vecchio ammiraglio che forse gli aveva dato l'ordine di svegliarlo un po' questo ragazzo. Ma nel momento in cui entra nell'età in cui deve essere preparato ed educato a diventare uomo e a diventare principe, a diventare futuro re, subentra il rigore. Il rigore vuol dire gli orari, vuol dire le lezioni, vuol dire il vedere il padre e la madre soltanto due volte alla settimana in occasioni ufficiali, poi vorrà dire il collegio della Lungara a Roma, dove durante gli intervalli gli altri ragazzi giocano, scherzano, e lui invece passeggia con un ufficiale che gli legge le motivazioni delle medaglie d'oro dei soldati italiani caduti nella Prima Guerra Mondiale. Quando il paese attraversa la tragedia della Grande Guerra, Umberto ha solo 11 anni, ma i fotografi e i primi cineoperatori dell'epoca sembrano già accorgersi del carisma dell'erede al trono. Un principe cresciuto nel rigore dell'Accademia di Modena che ha visto solo da lontano la nascita del fascismo, ma che è tornato a Torino e pronto a fare il suo ingresso in società. La fase felice di Umberto coincide con i secondi anni 20, quando, terminata la fase di formazione, viene a vivere a Torino. Il bel mondo torinese vive fino in fondo i ruggenti anni 20 e Umberto ne è uno dei protagonisti. Una corte che fa sognare gli italiani. Lontano dal grigiore del padre e dalla violenza del regime, Umberto è l'essenza stessa della monarchia e dell'anima di un paese che vuole sognare. Ce ne parlano gli storici Arrigo Petacco e Gianni Oliva. Di presenza era bellissimo, si diceva allora che fosse più bello di Rodolfo Valentino, e molte attrici americane venivano appositamente in Italia per conoscerlo e sperando di sedurlo. Aveva una grandissima popolarità e un contatto con la gente semplice che era un qualche cosa di innato, che sono cose che non si insegnano. Probabilmente in quelle frequentazioni delle sale da ballo o della Courmayeur avrebbe voluto essere molto più fragoroso, molto più esuberante, perché sempre subentrava l'autocontrollo ereditato dall'educazione a principe reale che aveva ricevuto. Perché in lui deve essere esaltato l'uomo di Stato, l'erede di una dinastia millenaria. Un generale, non ricordo quale, disse: maestà, il principe però è molto, molto amato perché è bellissimo, gli vogliono bene, è simpatico. Lui buffonchio, è certo, essere alti e belli è molto più comodo che essere piccoli e brutti. Vittorio III ha sempre detto: in casa Savoia si regna uno alla volta, e quindi credo che continuava a essere educato Umberto. Via via la sua competenza, la sua educazione, la sua istruzione salivano senza dargli una responsabilità precisa, perché era considerato forse anche una specie di riserva. Avete sentito Amedeo D'Aosta con la storia dell'ultimo re d'Italia, Umberto di Savoia. Mix 24, la storia. Mio padre è sempre stato un militare. Quello che diceva suo padre era quello che diceva. Era stato anche educato così. Bentornati a Mix 24. Quello che raccontiamo oggi è la storia dell'erede di una dinastia millenaria. Ma se il futuro di Umberto di Savoia sembra scritto dalla nascita, nel 22, con l'avvento del fascismo, cambia tutto. Annientata ogni opposizione democratica, azzerata ogni libertà, il regime si basa sul culto della personalità del giuce, che dunque non ammette nessun rivale. Troppo ingombrante la figura di un principe ereditario bello che rischia di oscurare la sua figura nelle cronache e nei cinegiornali, come spiega lo storico Gianni Oliva. Mussolini non ha mai dimostrato simpatia nei confronti di Umberto e credo che ne abbia patito la popolarità. Umberto era un personaggio popolare, Mussolini era un dittatore, i dittatori non vogliono mai condividere la popolarità con qualcun altro. Mio padre non ha mai detto niente contro Mussolini. No, era Mussolini che invidiava mio padre, sì, sicuramente. Quello tra il duce e il principe ereditario, come conferma Maria Gabriella di Savoia, è un confronto che nasce sul piano dell'immagine e non solo. Ce ne parla il figlio di Umberto, Vittorio Emanuele. Non ha mai indossato la divisa fascista, era sempre la divisa militare. Fa scalpore l'allontanamento da casa Savoia del figlio del maresciallo Diaz, Marcello, il quale era entrato con il distintivo del Partito Nazionale Fascista. Ma a casa Savoia non si indossa il distintivo di nessun partito. Ce ne parla Amedeo d'Aosta e Maria Pia di Savoia. E Mussolini a un certo momento si occupa perfino del protocollo del Quirinale, va a mettere, mettiamo in modo figurato, i posti a tavola lì, di questo siamo sicuri. Ha riformato un certo numero di leggi sull'araldica, sulla nobiltà italiana, ne è diventato il capo. Noi sappiamo che nell'età del fascismo c'erano le cosiddette veline che filtravano le notizie, invece tutto quello che riguardava Umberto, la frivolezza di Umberto, passava. Questo proprio perché lo si intendeva, come dire, far passare come il principe da Merino, che però non era molto, diciamo, intelligente o molto formato politicamente parlando. Avete sentito lo scrittore Luciano Regolo? Umberto, che Mussolini ordina alla stampa di definire sempre principe di Piemonte e mai principe ereditario, deve essere sminuito, offuscato. Il capo della polizia, Arturo Bocchini, riceve addirittura l'ordine di preparare le prove contro il figlio per raccontare uno scandalo sessuale raccolto in un dossier dell'Ovra da noi ritrovato negli archivi di Stato. Così era scritto. Bologna, 17 maggio 1930. Si insiste sull'antifascismo di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario. Se ne parla ovunque. Si è sempre parlato dell'esistenza di un dossier ricattatorio tenuto e aperto da Mussolini con le informazioni che provenivano direttamente dall'Ovra, la quale comincia veramente a sorvegliare costantemente Umberto, con pettegolezzi che erano all'inizio contraddittori, no? Perché si parlava di storia eventualmente con una donna molto famosa di Torino, a invece, diciamo, a storie a sfondo omosessuale, e poi presero proprio questa piega. Avete sentito Luciano Regolo? Pettegolezzi, ma che sembrano incidere sulle scelte politiche del re. Ancora Luciano Regolo e lo storico Alessandro Campi. Questo anche ci dà delle spiegazioni sull'atteggiamento del padre Vittorio Emanuele III di fronte alla dittatura, che è abbastanza flebile nella difesa delle prerogative regie. E infatti nel 1928 il Gran Consiglio del Fascismo approva una legge per la quale, diciamo, era il Gran Consiglio a dover valutare l'idoneità di un erede al trono a succedere al padre, diciamo, defunto. Sicuramente esistono dei dossier con i quali Mussolini pensava di poter ricattare la monarchia, Umberto era tenuto sotto osservazione dall'Ovra, però, diciamo, la condiscendenza della monarchia, la passività di Vittorio Emanuele III nei confronti del fascismo ha ragioni essenzialmente politiche. La monarchia favorisce l'ascesa del fascismo al potere e salva se stessa. Con altre rivoluzioni in Europa le monarchie spariscono, in Italia invece si salva. Quindi questo è l'elemento politico di convivenza che la monarchia accetta, al di là dei ricatti, delle carte segrete, delle pressioni della polizia segreta. Quel triste aborto della legge sulla successione al trono era un modo per ricattare il principe di Piemonte, per costringerlo ad un atteggiamento più favorevole verso il regime. In una seduta segreta tenuta dal capo del governo, il duce ha dichiarato formalmente che in nessun caso il principe ereditario diverrà re d'Italia. Questo per i suoi vizi e per la sua vita sregolata. Luigi Federzoni, presidente del Senato dal 1927 al 39, così scrive nei suoi diari. Ma per Umberto la dinastia va salvaguardata ad ogni costo. E si accelerano i tempi del matrimonio con Maria José per mettere a tacere determinate chiacchiere e determinati pettegolezzi. La polizia segreta intanto trasmette questi rapporti. 24 dicembre 1929. Il cardinale di Belmonte ci assicura che il principe Umberto di Savoia piange giorno e notte perché non vuole assolutamente sposare Maria José del Belgio e che l'hanno fatta venire in antecedenza, appunto, per evitare gravissime complicazioni. Umberto nel 1930 si sposa con Maria José, che è la figlia del re del Belgio e proviene da quelle che sono chiamate le monarchie delle biciclette, estremamente democratiche, come racconta la figlia di Umberto e Maria José, Maria Gabriella di Savoia. Maria José era la sposina ideale e lei era tutta contenta, credo, perché viveva il suo mondo delle favole. Poi ho conosciuto la vecchia governante di mia madre,

la storia. Bentornati su Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Umberto, l'ultimo re d'Italia, l'erede di Casa Savoia. Un problema, quello della successione, che i militari vorrebbero risolvere puntando su Umberto di Savoia. Ma la realtà storica dice un'altra cosa. Nei mesi successivi il legame tra Italia fascista e la Germania nazista si fa sempre più stretto. È l'orrore delle leggi razziali. Ce ne parlano gli storici Alessandro Campi e Aldo Mola. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, quali abbiano indiscutibili meriti. Nel rapporto col fascismo, il re è convinto di potersi salvare attraverso lo Statuto Albertino, trincerandosi dietro il Senato, sul quale ovviamente ha una grandissima influenza. Vittorio Emanuele III rifiuta in prima istanza di firmare un decreto sulla difesa della stirpe o difesa della razza. Poi firma. La verità è che Vittorio Emanuele condivideva con gran parte degli italiani i pregiudizi allora diffusi nei confronti degli ebrei e non è mai andato oltre, come dire, un'umana pietà nei confronti degli ebrei italiani. Non andarono in Senato a pronunciarsi pubblicamente contro le leggi razziali i senatori Luigi Einaudi, Benedetto Croce e tantissimi altri, i quali fecero finta di non sapere, di non vedere. E allora la legge passa in Parlamento, il disegno di legge viene discusso e approvato dal Parlamento. Umberto guarda con sconcerto alla decisione del padre, ma non la rinnegherà mai, come spiega il figlio, Vittorio Emanuele di Savoia. Le leggi razziali sono state totalmente denigrate sia da mio padre e da mia madre, totalmente, ma mio padre non aveva a quel momento la voce in capitolo. Anche l'opinione pubblica italiana e la classe dirigente non sembrano avere obiezioni, come conferma Gianni Oliva. La classe dirigente, i professori universitari, i giornalisti, gli intellettuali, i comandanti militari, i magistrati, tutti quelli che avevano dei ruoli di potere, hanno condiviso e sono stati complici del fascismo fino alla fine. Fino a quando si sono accorti che il fascismo portava alla rovina anche loro. E quando ci sono state le leggi razziali, più di 200 docenti ebrei sono stati cacciati dalle università, la stragrande maggioranza dei loro colleghi hanno tirato fuori i coltelli, non per difendere i colleghi ebrei cacciati, ma per spartirsi i posti vuoti e liberi che in questo modo si determinavano. Vittorio Emanuele III ha firmato il suo patto con il diavolo. Ma forse, come spiega il nipote Emanuele Filiberto, avrebbe dovuto rifiutare. Il re rimane il re. No, queste cose non le accetto e non le firmo. Preferisco partire, preferisco sacrificarmi, però queste non le firmo. Ecco l'errore che c'è stato. E ecco dove gli italiani forse si aspettavano di più del ruolo di Casa Savoia in questo periodo. Saluto il re! Saluto il re! È come se Casa Savoia abbia abbracciato il fascismo indotto alle circostanze, no? E poi sia, diciamo, perita in questo abbraccio mortale. La coreografia di Stato in cui procedevano Fascio Littorio e Scudo Sabaudo insieme sarà fatale poi alla dinastia, anche come, diciamo, come immagine, come credibilità e tutto il resto, perché nessuno sapeva quali erano i rapporti sotterranei in questo senso. Avete sentito lo scrittore Luciano Regolo, un abbraccio mortale che macchia per sempre l'onore della corona. Però Umberto si rifiuta di licenziare il suo aiutante di campo ebreo Salvadori. E sempre secondo l'ovra la casa di Umberto Maria José diventerebbe un covo della cospirazione antifascista. E sarebbe la principessa belga a spingere sempre di più il principe ereditario verso una qualche forma di opposizione al regime. Ce ne parlano il nipote Emanuele Filiberto e la figlia di Umberto Maria Gabriella di Savoia. La coppia Maria José e Umberto II erano boicottati dal regime, perché era tutto quello che Mussolini odiava, lui voleva mettere i suoi lì. Mia madre mi ha detto che si parlavano spesso, che erano antifascisti completi, ma non potevano far niente. O quasi.

delle 18 regioni che votarono a quell'epoca, 9-9, le 9 del sud votarono tutte la maggioranza monarchica e le 9 del nord tutta maggioranza repubblicana. Quindi già quello dava l'idea che l'Italia era spaccata in due. Mancano il Trentino sotto amministrazione alleata e la Venezia Giulia contesa dalla Jugoslavia. Ancora Arrigo Petacco. Per non creare confusione, per non far arrabbiare troppo, davano dei risultati spezzettati. Fino alla fine siamo arrivati con l'idea che fossimo sul pari. Umberto vota il 3 giugno. La sera del 4 può ancora sperare, come racconta lo storico Gianni Oliva. Quando giungono i risultati, giungono prima i risultati del mezzogiorno, che assegnano la vittoria alla monarchia. Il giorno dopo il risultato invece cambia, perché arrivano le schede votate nel nord. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Nel mezzogiorno si grida al broglio e in Napoli c'è una manifestazione spontanea che attraversa la città e che portano a 11 morti, 2 tra le forze di polizia e 9 tra i manifestanti. Avete sentito lo storico Gianni Oliva. Ma quella per la monarchia non è una battaglia che riguarda solo gli italiani, come conferma lo storico Aldo Mola. Gli angloamericani dichiarano che non garantiscono l'incolumità del sovrano. Quindi è una partita truccata, perché in realtà il re potrebbe vincerla solo utilizzando lo strumento militare. Il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. Una conta che non placa gli animi. Alcide De Gasperi preme perché Umberto faccia un passo indietro. Ma Umberto rifiuta più volte di firmare il passaggio dei pieni poteri a De Gasperi. A inizio un braccio di ferro. Il 13 giugno la svolta. Il governo non aspetta i risultati della Cassazione e assume i pieni poteri. L'Italia è sull'orlo di una guerra civile. Umberto viene invitato dai monarchici a rimanere. Ma se fosse rimasto, sarebbe scoppiata la guerra civile. A convincerlo interviene il Papa. Come racconta il procuratore di Umberto, Solaro del Borgo. Il Santo Padre fece presente a Umberto quali sarebbero state le tragiche conseguenze di un conflitto in quella sede, e il re Umberto decise, proprio per evitare lo spargimento di sangue, di partire prima della finale decisione, in modo da lasciare il paese non in conflitto. A consigliare Umberto di lasciare l'Italia sarebbe stato addirittura Pio XII. Rivolgendosi alla nazione dopo il referendum, anziché parlare di colpo di Stato, Umberto parla di un gesto rivoluzionario di De Gasperi che avrebbe forzato la mano sui risultati del referendum. Il re scioglie l'esercito dal giuramento di fedeltà alla corona, temendo scontri e forse una nuova guerra fra italiani, ma d'altra parte rifiuta di abdicare e giurare fedeltà alla Repubblica. Il 13 giugno del 1946, consegnati i gioielli di Casa Savoia al governatore della Banca d'Italia, Luigi Naudi, Umberto parte alla volta di Cascais in Portogallo, l'unico paese che si sia offerto di accoglierlo. Il 1 gennaio 1948 entra in vigore la 13ª disposizione transitoria e finale della Costituzione, con cui si vieta l'ingresso e il soggiorno in Italia degli ex re di Casa Savoia ai loro consorti e ai loro discendenti maschi, avvocando i loro beni allo Stato. Dopo una lunga e dolorosa malattia, l'ultimo re d'Italia muore in ospedale a Ginevra il 18 marzo del 1983. Al suo funerale non è presente nessun rappresentante dello Stato italiano. Amava definirsi un umile servitore del popolo. Sai tu cos'è questa nostalgia? Mi si chiama il Re di Maggio, ma faccio parte di una famiglia che ha regnato per 1000 anni e non un Savoia avrebbe accettato, durante tutto questo tempo, di sminuire la figura del proprio padre. Neppure, come nel mio caso di re pressoché dimenticato, per mendicare un ritorno di fiamma e di ricordo. Ebbene, io non mi sono mai considerato pomposamente il re degli italiani. Mi sono sempre considerato, e mi considero tuttora, il più umile e devoto servitore del mio paese e del mio popolo. Ecco tutto.